Van Loon. Dialogando di storia, qualcosa ne verrà fuori. Ciao a tutte e tutti, da Frey e Olga. Benvenuti e benvenuti a Van Loon, la vostra mezz'ora di storia del sabato pomeriggio. E siamo in settimane di grandi discussioni in cui si parla con giusta preoccupazione dell'avanzata della destra, sia essa politica o di stato d'animo che sia. Pur avendo programmato questa puntata senza idea di sapere, senza sapere come sarebbe andata a finire domenica 4 marzo, paradossalmente abbiamo beccato la tematica giusta. Perché andiamo ad infilarci in quel mondo di destra con questa puntata che viaggia fra storia e letteratura e che andiamo a raccontare per l'appunto uno di quei miti della destra radicale del neofascismo italiano, nella rivolta di Reggio Calabria del 1970. Andiamo ad indagare le giornate dei cosiddetti boia chi molla di triste memoria attraverso un libro firmato da uno scrittore collettivo. Il libro è a schema libero ed è stato scritto dal collettivo calabrese Lupalanca ed edito da Rubettino nel 2017. Il collettivo di scrittori prende il nome da Massimo Palanca del Catanzaro, uno di quei calciatori che potremmo definire un bomber di provincia degli anni 70. I loro libri sono tutti legati alla storia contemporanea della Calabria, costruiti con la volontà di andare a raccontare la memoria di una regione che è stata attraversata da memorie di disperazione, sopraffazione e misteri. I Lupalanca hanno raccontato in Blocco 52 del 2012 la storia del militante comunista Luigi Silippo, uno dei primi morti di violenza politica in Calabria. Poi la toccante vicenda delle donne calabresi, sposate per corrispondenza negli anni 70 a contadini piemontesi, che è alla base del libro Ti ho vista che ridevi del 2015. Nella puntata di oggi invece parleremo con Valerio dei Lupalanca, che sarà tra pochissimo in onda con noi e ci parlerà del loro ultimo libro, A schema libero, edito come gli altri da Rubettino, storica e ottima casa editrice calabrese. A schema libero, il libro di cui vi parliamo per l'appunto in questa portata, si muove fra il passato, gli anni 70 della rivolta di Reggio e della strategia della tensione, e il presente, o meglio diciamo un passato molto vicino, che è il 2010-2012. A raccontare questa storia sono due voci. Da una parte abbiamo l'enigmista, un personaggio enigmatico verrebbe da dire se non fosse una sciocca ripetizione, di un ex commissario di polizia prestato ai servizi che ricorda tramite le definizioni di un complesso schema di parole crociate che sta costruendo, racconta la sua esperienza nel passato. E dall'altra c'è Margherita, una giornalista precaria, specchio della nostra generazione, calabrese ma trapiantata a Roma, che è in cerca di una stabilità e inchiocca, potremmo dire, in una di queste storie abbastanza misteriose. Le loro voci ci raccontano del cuore nero, potremmo dire, di quegli anni. Gli anni 70 calabresi, come vedremo con Valerio, sono stati qualcosa di molto complesso, ma sicuramente hanno avuto un peso determinante nello sviluppo successivo della regione, come anche nello sviluppo successivo della storia del nostro paese, perché nel contesto della rivolta di Reggio iniziò a stringersi quell'accordo fra poteri locali, servizi segreti, Stato, neofascismo e 'ndrangheta che hanno influito negativamente sulla storia successiva per l'appunto della Calabria ma anche del paese. Proprio su questo punto vi presentiamo la canzone, la prima canzone di questa puntata, che è dell'album che abbiamo scelto per voi. È un album calabresissimo, da sud di Kento, un rapper di Reggio. L'album è del 2016, la canzone che cade a proprio a puntino è Piazzale Loreto. Buon ascolto. I fascisti di ieri e di oggi con giacca e cravatta e la 24 ore. Portare il denaro che serve a pagare la mafia con la corruzione. Mafia capitale, quel sistema elettorale in cui il camerata serve e fa da servo del capitale. Nei comizi fomentano l'odio, tengono il punto da bravo soldato. Odiano i rom, certo però non odiano i soldi che gli hanno portato. E una sinistra finta incassa e fa finta di niente. Ma non dirti antifascista se fai business con sta gente. Porta i soldi ed assegnano il bando, sì. Porta la Celtica, alcol alle mano. Io porto fuoco e benzina in ogni mia rima e so che bruceranno. Odio Casa Pound, Alba Dorata, i loro slogan. E chi ha preso vecchia merda e l'ha chiamata forza nuova. Fino a ieri facevano i primi guardiani di muri puliti e decoro. Ora fanno convention di rap e graffiti per fare parlare di loro. Per questo porto resistenza, non un passo indietro. Ogni palco su cui salgo è piazzale Loreto. Rimango antifascista. curva deve stare a testa in giù. Non ti piace la mia musica, a lei non piaci tu. Rimango antifascista, la fine del razzista. Per cambiare prospettiva deve stare a testa in giù. Non ti piace la mia musica, a lei non piaci tu. E dire che ormai non esiste il fascismo è la scusa dell'indifferente. Ha lavato la faccia, indossato la giacca, rimane la merda di sempre. Io so che Dax resiste ancora ed odia chi lo uccide ogni giorno col silenzio in nome del suo quieto vivere. Io sto con gli stessi compagni di sempre che m'hanno guardato la schiena. A scuola ed in piazza il rap è una farsa, rifiuto sta merda di scena. Com'è che sti discorsi li fa quasi solo Kento, mentre voi non dite niente come se avesse il microfono spento. Ne ho visti nei centri sociali spararsi le pose da MC militanti. Bacerebbero il culo a Salvini se gli mettesse dei soldi davanti. Noi siamo gli sconfitti che si prendono il domani. Siamo ricchi se di tutto tranne i beni materiali. Finché una rima, sangue e saliva, penna sul foglio e sativa. Finché la lotta fa la differenza, la mia resistenza continua. Stasera questo posto è nostro, non si cede un metro. Ogni palco che calpesto e che assale lo reto. Rimango antifascista, la fine del razzista. Per cambiare prospettiva deve stare a testa in giù. Non ti piace la mia musica, a lei non piaci tu. Rimango antifascista, la fine del razzista. Per cambiare prospettiva deve stare a testa in giù. Non ti piace la mia musica, a lei non piaci tu. Rimango antifascista, la fine del razzista. Per cambiare prospettiva deve stare a testa in giù. Non ti piace la mia musica, a lei non piaci tu. Rimango antifascista, la fine del razzista. Per cambiare prospettiva deve stare a testa in giù. Non ti piace la mia musica, a lei non piaci tu. Eccoci, ciao Valerio, benvenuto a Vallun. Grazie, ben trovati. Allora, prima di entrare nella presentazione del vostro ultimo libro A Schema Libero, ti chiederei di presentarci il collettivo, di raccontare soprattutto la maniera con cui costruite i vostri romanzi sulla base delle ricerche che fate sugli archivi e sulla cronaca. Mi aveva colpito in particolare, infatti, rileggendo la chiacchierata che avete fatto all'indomani dell'uscita di Blocco 52, della chiacchierata che avete fatto con Wuming, e leggevo che eravate stati accusati anche di muovervi con eccessiva facilità, diciamo, fra i possibili scenari suggeriti dal libro. All'epoca però c'era la necessità di riempire un vuoto lasciato nella memoria e nella storia, con la necessità di ridare consistenza alla figura dimenticata di Luigi Santippo, che è al centro di Blocco 52. Sidipo, scusa, cos'è cambiato con A Schema Libero? Dunque, l'origine del collettivo si situa in un'associazione che qualche anno prima c'era a Catanzaro, che si chiamava Altra Catanzaro, che era altra sia rispetto, diciamo, a una visione culturale, sia rispetto al fatto che molti di noi non vivevano e non vivono tuttora più in quella realtà. E da lì nacquero alcuni percorsi di ricerca su fatti dimenticati, alcuni anche controversi, come la morte che richiamiamo nella negli altri romanzi di Giuseppe Malacaria durante una manifestazione antifascista, che tra l'altro avvenne proprio durante il periodo della rivolta del Boiachi Molla, di cui parleremo magari dopo. E niente, noi cercavamo notizie su questo omicidio avvenuto a Catanzaro il 1 aprile del 1965 e non trovavamo documenti. Era un omicidio su cui c'erano varie piste, varie ipotesi, vari moventi, ma non si pervenne a nessuna realtà, né nessuna verità né storica né giudiziaria. Noi non trovavamo neanche più il fascicolo del processo di corte d'assise su quell'omicidio. E allora, alla fine, invece di fare un'inchiesta, decidemmo di fare un romanzo, e la cosa ha funzionato, e lì chiaramente il romanzo si situa in quella terra che è stata il vero e il verosimile, tra noi lavoriamo sempre insomma con uno stile cosiddetto non fiction novel, quindi recuperando pezzi di documentazione storica, magari anche orale come nel caso del primo romanzo, e mischiandola con elementi di fantasia, di creatività. E questa formula lungo i tre romanzi che abbiamo pubblicato ha funzionato. Io ti chiedo invece, Valerio, nei vostri libri avete affrontato la storia della Calabria, chiaramente, con un'attenzione specifica a delle storie che potremmo dire che sono dimenticate, no? Come quella appunto che abbiamo già citato di Silippo, che è al centro di Blocco 52. Io ti chiedo, in che maniera guardate agli anni 70 calabresi, e dico in particolare alla rivolta di Reggio Calabria, dove si incontrano, e poi correggimi se sbaglio, sia rabbia popolare, sia disperazione, e si incrociano il neofascismo e l'andrangheta. Qual è o com'è la storia degli anni 70 calabresi raccontata da Lupa Lanca? Noi tra l'altro nei tre romanzi, ne parlavamo l'altro giorno, i nostri tre romanzi si situano tra la metà degli anni 60 il primo, gli anni 60-70 il secondo, gli anni 70 il terzo, poi hanno tutti proiezioni che arrivano fino ai giorni nostri, però la radice, anche forse perché la maggior parte di noi nasce in quegli anni, abbiamo una certa età diciamo, l'attenzione è rivolta a quei momenti in cui si formano determinati fenomeni che poi arrivano fino a condizionare i nostri giorni. Gli anni 70 calabresi sono stati molto segnati dalla rivolta di Reggio Calabria, e noi abbiamo scelto di raccontarla perché era un fatto non solo dimenticato, ma soprattutto paradossalmente dimenticato rispetto alle proporzioni che ha avuto, perché si è trattato di una rivolta urbana, probabilmente la più lunga estesa nel secondo dopoguerra, che è durata dal luglio del 1970 al febbraio del 1971. Sono state bruciate la questura, la prefettura, le sedi dei partiti, dei sindacati, c'erano i blindati per strada, i carri armati attestati poco fuori dalla città, il presidente della Repubblica Saragat minacciò le dimissioni. E lì fu effettivamente un moto di ribellione popolare, che nasceva dalla contesa, diciamo così, per il capoluogo di regione tra Catanzaro e Reggio Calabria, ma affondava le sue radici in una realtà di grande arretratezza, di grande anche difficoltà di vivere, cioè l'Italia comunque ha vissuto, stava già diciamo uscendo forse dagli anni migliori del boom economico attraverso l'autunno caldo, il primo del 68, stava entrando negli anni della crisi che poi si accentuarono con la crisi petrolifera del 73, però ricordiamo che stavamo sotto l'ombrello della NATO e nella contesa con l'Unione Sovietica, e in questo contesto e nella temperie diciamo della rivolta che si svolse a Reggio Calabria, che sicuramente degli elementi di saldatura, tandangheta, massoneria, pezzi deviati dei servizi, politica, si salda. Noi usiamo poi un po' di oggetti, anche le cassette che Franco Freda poi nel 1978, quando fuggì dalla dimora obbligata durante il processo di Piazza Fontana, che fu spostato da Milano a Catanzaro, per la strage di Piazza Fontana che fu spostato da Milano a Catanzaro, fu aiutato dall'Andrangheta a fuggire. Nel momento in cui fu custodito a Reggio Calabria, pare, questo lo dicono anche dei magistrati, sancito gli atti giudiziari, che registrò delle cassette in cui rivelava alcune realtà scottanti. Ecco, noi ne abbiamo fatto un elemento di racconto. Ecco, gli anni 70 forse, siccome poi c'era anche una tesi secondo cui i De Stefano, la famiglia più potente dell'Andrangheta Regina, con quelle cassette peraltro tennero in scacco il potere romano, diciamo così, perché è un romanzo che si svolge tra Reggio Calabria e Roma, proprio a significare il legame dei poteri e tra i poteri. E non ultimo accenniamo, diciamo così, al tentativo di golpe di Junio Valerio Borghese, che avvenne il 7 dell'8 dicembre 1970 e al quale parteciparono tra gli altri gli uomini dell''ndrangheta. Diciamo che tutto si tiene e da quegli anni 70 si proiettano delle ombre fino ai giorni nostri, sostanzialmente. Questo era quello, l'intento narrativo, diciamo, dal punto di vista storico. Bene, prima di passare alla prossima domanda, come possiamo dire, ci ascoltiamo un pezzo. L'album che stiamo ascoltando è Kento, l'album è Da Sud del 2016. Secondo, le mie rime in fila fanno tre giri del mondo. Rapper di tendenza, io da solo ti circondo. Piacere, Francesco, riscrivo il contesto. Se si va all'Expo stasera non esco. Sputo sul presente che si scorda del passato, come se fai radio e non sai chi è impastato. Belle quelle Jordan ma non ti fanno atleta. Sarebbe come se ogni rapper fosse un poeta. Amo il vino, il mare, la chiarezza nei concetti. Voti per Salvini, non venire ai miei concerti. Porto il suono perfetto, il pic greco. Per il capitale un disastro, il pic greco. Ho dentro l'anima la voce degli esclusi. E non è solo musica, è soul music. E chi solo al bordero. Nel disco 10 pezzi ma almeno 20 flow. Siete tutti bravissimi ma a me piace l'hip hop. Kento sul sample o sulla chitarra. RC Giant Bryant con la palla. Tieniti il cristal, non l'ho mai capito. Vodka secca, boccia secca, vero bullshit. Dico, la penna non scrive, il nervoso mi cresce. Nuove prospettive, a.k.a. MC Escher. Finti militanti, sono facce da vetrina. Ma non eravamo in tanti quando stavo in Palestina. È sempre più vero che raccogli ciò che semini. Vieni giù con noi, Big Noise, Public Enemy. In mano solo pietre, ma ho quelle più belle. A costa ritelle, rimango un ribelle. Bene, siete sempre in onda con Vallun, la vostra mezz'ora di storia del sabato pomeriggio, e stiamo chiacchierando con Valerio, uno degli autori di A Schema Libero, è un romanzo pubblicato da Rubettino nel 2017, e Valerio è uno dei Lupalanca, il collettivo di autori che sta animando, diciamo, una certa maniera di raccontare storia non in Calabria ma non solo. Allora, tornando su A Schema Libero, una dei personaggi che colpisce maggiormente, naturalmente, è quello dell'enigmista, diciamo, un commissario di polizia prestato agli affari riservati e al SID, che nelle giornate della pensione, alla fine della Guerra Fredda, perché se il romanzo racconta gli anni 70, è molte delle scene, i personaggi compaiono anche nel nostro presente, fra il 2010 e il 2012, se non sbaglio, ricorda quello che è stato il suo passato e passa le sue giornate a comporre delle parole crociate. Nella composizione di queste parole crociate emerge una sorta di lessico dello scontro all'interno della Prima Repubblica, dello scontro politico. Allora Valerio, ti vorrei chiedere, qual è questo lessico politico e che immagine degli anni 70, visti da un membro dello Stato, diciamo, quale immagine emerge? Che immagine della storia repubblicana emerge? Allora, il Cruciverbe è stato l'espediente letterario, diciamo un po' l'infrastruttura su cui abbiamo appoggiato la narrazione e quindi su quello abbiamo effettuato un gioco prima di tutto di memoria e poi, come dicevi giustamente tu, abbiamo cercato di inventare un lessico, che era un lessico memoriale, quindi un lessico della memoria di una persona che tra l'altro non ha un nome, si chiama l'Enigmista. Di una persona che attraversa a volte inconsapevolmente, infatti lo paragoniamo a un certo punto a Forrest Gump, alcuni degli elementi significativi della storia dagli anni 70 in poi. Quel lessico è un lessico in cui dovere, lealtà, senso delle istituzioni si confondono, ne esce un lessico molto marchiato dal colore grigio, quindi ci sono poi alcune figure, noi citiamo l'editoriale di Pasolini pochi mesi prima della sua uccisione sul Corriere della Sera, passata alla storia come l'editoriale sulla scomparsa delle lucciole, ma quello era un pezzo sul vuoto di potere. E questo forse l'elemento che la visione che a noi interessava riportare, questo forse l'elemento che caratterizza molto questa visione dei poteri, perché poi nel vuoto di potere qualcuno si infila e sostanzialmente per quello che non solo ci piace immaginare, ma quello che i documenti storici ci restituiscono è che per esempio l''Ndrangheta, noi abbiamo fatto una presentazione con De Magistris, col sindaco De Magistris a Napoli, e lui che diciamo ha condotto alcune inchieste che hanno, come dire, non solo sfiorato, ma sono entrate dentro i templi del potere di Reggio Calabria, ci ha raccontato di una perquisizione che ha effettuato durante una di queste inchieste, e si infila il potere criminale. Quindi il problema è un problema dove, cioè più che un problema, l'elemento di significanza di questo lessico è l'ambiguità. L'ambiguità anche ingenua per certi versi di questo personaggio, cioè consapevole di far parte di un sistema sbagliato, ma leale a quelle che erano le istituzioni in quel momento e crediamo di non essere tra l'altro andati molto distanti dalla realtà di alcuni pezzi di Stato che si sono trovati coinvolti in vicende molto quantomeno fosche, non voglio dire losche, ma diciamo così, con una visuale un po' appannata. E quindi questo lessico dell'enigmista alla fine non è altro che il modo per provare a raccontare questa ambiguità. E poi, vabbè, nella parte finale del romanzo questa ambiguità poi si scioglierà in una maniera particolare, che ovviamente non raccontiamo, però diciamo che arriva il capitolo conclusivo, si svolge nel giorno in cui Giuseppe Scopelliti, già sindaco di Reggio Calabria, già presidente della Regione Calabria, viene condannato in primo grado per diciamo lo sbancamento dei conti del comune di Reggio Calabria che aveva operato. Quindi leghiamo anche qui molto vero e verosimile fantasia e dati storici. Tra l'altro mi piace citare il fatto che abbiamo recuperato un'intervista che Oriana Fallaci fece a Ciccio Franco, leader dei Boia che molla, quindi della rivolta di Reggio Calabria, pubblicata sull'Europeo a febbraio del 71, cioè quando la rivolta era ancora in corso e Ciccio Franco era latitante, Ciccio Franco che poi divenne senatore. Come dire, e questo accenno è importante. Nel lessico c'è anche il fatto, si accennava prima, che quella di Reggio Calabria fu comunque una rivolta popolare, interpretata anche male forse dai partiti che diedero un segno, come dire, di rigetto di quelle istanze, e lì probabilmente si aprirà anche la strada, perché neofascismo, 'ndrangheta, massoneria e tutto quello che ne è conseguito saldassero un patto e in qualche modo condizionassero la vita non soltanto della Calabria ma un po' di tutto il paese. Bene, ringraziamo ancora Valerio di Lupalanca per la disponibilità accordataci e vi suggeriamo quindi di andarvi a recuperare questo libro a schema libero di cui abbiamo parlato con Valerio, a schema libero, edito da Rubettino 2017. Appuntamenti per il fine settimana? Sì, vi segnaliamo degli appuntamenti da ricordare come ogni anno domenica 11 marzo per l'anniversario della morte di Lo Russo. Ci diamo appuntamento in via Mascarella, proprio nel punto dove i proiettili hanno ucciso Lo Russo, e per tutto il giorno ci saranno banchetti, concerti, spazi sociali e soprattutto antifascismo. Che non guasta mai di questo periodo. Esatto. Vi segnaliamo anche il 13 marzo alla libreria Modo Info Shop la presentazione del libro Sui confini, Europa, un viaggio sulle frontiere di Marco Truzzi. Mentre il 16 per il laboratorio di analisi politica dell'Istituto Gramsci c'è la conferenza di Isabella Consolati dal titolo Marx e gli accidenti della storia universale. Con questo è tutto, Frey. L'ultima cosa che ricordiamo è che se volete riascoltare la puntata in podcast c'è sul nostro sito www.radiovallun.info. Vallun con due O come sempre, altrimenti collegatevi alla nostra pagina Facebook, caso S-Vallun On Air, per avere aggiornamenti, approfondimenti e chiacchierare di storia anche durante la settimana. Buon proseguimento di giornata a tutti e tutti, da Frey e Olga. Ciao!